Siamo qui, già le quattro e siamo qui. Finestrini socchiusi su strade indifese dai nostri pesanti AKP. E così, anche il sabato è andato così. Si è bevuto, ballato, qualcuno ha imbarcato, il più scemo le ha prese a una faccia così. Ombre dure, adatte allora, l'autoradio intanto va. Rhythm and blues, e pestiamo coi piedi di più. Finché il polso cammina, facciamo mattina tenendoci su. Coi sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, e guai a chi ci sveglia. Sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sognando al meglio. C'è, come al solito, c'è quello che non tiene mai l'alcol, e allora ci tocca accostare finché ce n'è. E ancora via, a pedinare una morbida scia, una striscia invitante, talmente accogliente da perderci il fiato, e che sia quel che sia. E le casse sono zeppe, i suoni son violenti, ma cosa c'è? C'è che tanto benzina ce n'è. Uno fa il batterista, l'altro il chitarrista, tu basso tastiere, io voce, gli idioti del playback fan, playback fan, playback fan. Sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, e guai a chi ci sveglia. Sogni di rock and roll, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Sogni di rock and roll, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Sogni di rock and roll, sono chiusi su, sognando meglio dai nostri pesanti, pesanti a capo. Sogni di rock and roll, anche il sabato è andato. Sogni di rock and roll, anche il sabato è andato. Sogni di rock and roll, ballato con i guai a chi ci sveglia.